passando l'altro ieri da Verona, venendo da Roma, ho riletto per la centesima o millesima volta quella parola fatidica che è scritta sul cimitero monumentale di Verona, Resurrecturis. Questo monumento è innalzato a coloro che risusciteranno. E io in quel momento ho pregato i miei superiori sepolti lì, Don Moratti, gli altri che mi hanno fatto scuola, teologia, che mi hanno educato, mi hanno guidato per le vie dello spirito, come se fossero stati lì nella stessa mia macchina. Resurrecturis, questa frase me l'ha detta in un'udienza grandiosa in San Pietro, Paolo VI, arrivato al valico degli 80 anni. Oh, dice ogni tanto, io ripenso a quella parola fatidica che è scritta sul cimitero monumentale di Verona. Resurrecturis. Quei fedeli sanno che il destino dell'uomo non si chiude quaggiù, non si può calcolare con gli anni e i secoli, ma il destino dell'uomo è lo stesso destino del Creatore che trascende l'universo e vive una vita immortale. Il tempo che abbiamo adesso perciò è la moneta preziosa per conquistarci quel regno. Siamo venuti qui tutti, chi suda per un verso, chi sgobba per quell'altro, siamo tutti qui. Il Signore vuole che il paradiso ce lo guadagniamo almeno un poco, almeno il pane della colazione del mattino, eh? Vuole che ce lo guadagniamo un po'. E tanto più ci costa, tanto più in noi cresce la capacità recettiva, si allarga la capacità recettiva di questo gaudio misterioso che è lo stesso Dio che si darà a noi, Lui l'infinito dentro di noi, Lui così bello, così grande, così buono, così potente, così amabile. Il nostro Dio è il nostro paradiso. Non andiamo a rincorrere il vento, che giova l'uomo guadagnare tutto il mondo, che poi deve lasciare, se perdesse l'anima. Che cosa darà l'uomo in cambio dell'anima sua, una volta arrivato al giudizio di Dio, alla resa dei conti? Nessuno di noi ha un'anima di ricambio. Sulla macchina avrete sempre la ruota di ricambio, ma un'anima di ricambio non ce l'ha nessuno. Il giorno in cui Pio XII compiva i 40 anni di episcopato, 40 anni vescovo, gli hanno preparato una bella festa i romani. E alla fine dell'udienza una persona si è avvicinata a dire: Santo Padre, tante congratulazioni, sarà contento di questa bella festa? Si fece serio e disse: Oh, figliolo, sono pochi quelli che pensano alle gravi responsabilità che ho sulle spalle. Oh, io quando penso al rendiconto, alla resa dei conti che mi attende, non posso che chiedere la carità delle preghiere, anche a te, figliolo. Chiedo, prega per il Papa, che è vicino alla resa dei conti. I santi come ragionavano bene. Non si lasciavano prendere dalle euforie, dalle belle feste, dalle musiche, dai regali, dai complimenti. Il complimento più bello disse a questo individuo: Ecco, figliolo, una preghiera perché il Papa salvi la sua anima. Ma Santo Padre, lei non ha bisogno? Oh, non dirlo, ho più bisogno io che tutti. Papa, quello sì. Spendeva bene il suo tempo e anche noi lo vogliamo spendere bene. Stiamo proprio impiegandolo ottimamente in questi giorni. Sono le ferie più belle della vostra vita, quelle in cui la vostra anima prospera. Anche i vostri polmoni stanno bene, aria sana qui. Ma l'anima vostra come si rifà? Tutta da capo a piedi, per così dire. Si rifà nella sua intelligenza, nei suoi pensieri, si rifà nei suoi progetti, nei suoi desideri, si rifà innocente. Col pentimento dei peccati, con il sacrificio del silenzio, del raccoglimento, l'attenzione all'ascolto della parola di Dio, come si ringiovanisce la vostra anima.